Sono le 20:23 quando iniziamo questo spazio orario, diciamo senza una trasmissione di approfondimento oggi, ma una comunicazione. Una, diciamo, chiamata alla mobilitazione e ad un'assemblea cittadina qui a Roma, per partecipare a questa mobilitazione che si terrà all'Aquila il 18 ottobre, la mattina del 18 ottobre. Diciamo, ci riferiamo a un caso di violenza, e tentato omicidio che si è verificato all'Aquila. Il 12 febbraio scorso, forse molti lo ricorderanno, una terribile aggressione che ha ridotto in fin di vita una giovanissima donna di 20 anni, in una discoteca vicino all'Aquila, in un comune vicino all'Aquila. L'accusato dell'aggressione è un militare che è di stanza all'Aquila nella operazione famosa Strade Sicure. E appunto il caso ebbe una anche certa rilevanza nella cronaca. Noi sappiamo che la violenza contro le donne è capillare, è estremamente diffusa ed è fatta di, ahinoi, moltissimi casi, tutti ugualmente gravissimi. Parliamo e partiamo anche da questo caso dell'Aquila per organizzare una mobilitazione, perché la famiglia, in un primissimo momento, appena la ragazza, insomma, fu soccorsa e si capì che ovviamente era stata, quasi ammazzata e violentata, si rivolse al centro antiviolenza dell'Aquila e poi, in seguito contattò anche le femministe, appunto con la richiesta, il bisogno, la necessità di incontrarsi con altre donne, e appunto affrontare questo momento molto difficile per lei con l'aiuto, la compagnia, la solidarietà appunto delle femministe. E quindi abbiamo iniziato un percorso come femministe e lesbiche contro la violenza contro le donne che ci ha portate a immaginare, delineare, lanciare questo appuntamento per il 18 ottobre che è la prima data dell'udienza del processo appunto di questa giovane donna. Magari diciamo, possiamo ricordare a grandi linee quale è stato il fatto, un fatto cioè particolarmente veramente efferato e grave. Appunto è successo il 12 febbraio, è successo fuori o dentro, non si sa, una discoteca di Pizzoli, un comune dell'Aquila, appunto. Quindi ricordiamo pure un po' la situazione con un'area completamente militarizzata, in cui manca un centro di riunione sociale dove sappiamo che la città che è stata ricostruita sono state ricostruite delle città esterne ai centri storici. E la sicurezza di queste nuove città è data dai militari che girano per le strade. Sì, appunto, con una retorica che abbiamo conosciuto bene nei giorni immediatamente dopo il terremoto, i militari di fatto presidiano, sono uomini in armi che presidiano le strade dell'Aquila e non solo. Questo locale, poi tra l'altro, appunto, è noto per essere frequentato, insomma, da militari, molte dichiarazioni del proprietario, insomma, cioè, chiaramente i giovani militari vanno spesso in quello e in altri locali. E ad ogni modo, insomma, la ragazza è stata, vabbè, noi lo diciamo perché secondo noi è anche un tratto tipico che abbiamo trovato in altre terribili testimonianze che riguardano gli uomini in armi, in divisa, diciamo, è una forma di violenza appunto terribile che insomma hanno compiuto in anche altre occasioni in altre parti del mondo. Evidentemente è proprio una modalità di sevizia e tortura, per cui hanno usato un oggetto metallico, una spranga, qualcosa del genere, che non è mai stato rinvenuto dalle solerti indagini, immaginiamo noi, ma insomma comunque non è stato rinvenuto, ma ci sono prove evidenti di questo. Lo stesso chirurgo che ha operato la ragazza appena arrivata al pronto soccorso, un chirurgo con 40 anni di esperienza, insomma, ha detto di non aver mai visto in 40 anni una situazione così grave e devastata. Ovviamente lei ha dovuto subire diversi interventi, le è stato ricostruito l'intestino, è stata una violenza veramente efferata. La ragazza è stata lasciata fuori dalla discoteca in una notte d'inverno freddissima a morire sostanzialmente dissanguata. Si è salvata perché appunto è stata notata dal proprietario quando ha chiuso il locale. Sono stati fermati un gruppo di giovani e tra questi è stato individuato questo Tuccia, il quale effettivamente era coperto di sangue, il sangue risultava poi appartenente alla ragazza, e dunque l'indagato, unico indagato insomma di questo processo, è un militare, che appunto questo Francesco Tuccia, che attualmente si trova agli arresti domiciliari ad Avellino. E poco dopo questo fatto, ed è anche una delle altre ragioni per cui insomma pensiamo che abbia senso andare all'Aquila e organizzare lì una mobilitazione, anche un'altra ragazza sia sui giornali che in particolare poi partecipando alla trasmissione Chi l'ha visto, una studentessa dell'Aquila, ha detto in sostanza che a lei era successo un episodio non ovviamente degenerato in quella forma, ma era stata avvicinata appunto da un gruppo di militari, questi le avevano offerto da bere, poi uno di questi le aveva fatto qualche proposta, lei ha rifiutato, è stata presa a calci, a pugni, e per fortuna lei è riuscita diciamo a allontanarsi, ha fermato alcuni passanti e quindi insomma ha potuto salvarsi. Ha fatto un tentativo di denuncia presso il commissariato del fatto, che in realtà non le hanno permesso di fare, dicendole che in un caso come questo era meglio fare una querela, ciao e arrivederci. Ovviamente questa ragazza, dopo aver sentito la storia di cui stiamo parlando, ha insomma deciso di prendere parola insomma e di raccontare appunto anche dal suo punto di vista la storia di questi militari che girano appunto con le armi in pugno in tutto quel territorio e che evidentemente si divertono insomma esattamente in questo modo. E facciamo sì un piccolo stacco musicale, giusto. Yeah. E allora siamo in studio per parlare di un appello a mobilitazione il 18 ottobre sotto il Tribunale di L'Aquila alle 8:30, perché quel giorno là sarà l'inizio di un processo contro un militare che ha stuprato e tentato di uccidere una giovane donna nel febbraio 2012. Abbiamo parlato dei fatti particolarmente pesanti e anche la storia come si è svolta dopo lo stupro e il tentativo di uccisione ha continuato a essere per quella donna molto pesante. Eh sì, diciamo che inevitabilmente essendo almeno un militare colpevole di questo stupro e tentato omicidio efferato, lei si è trovata e si trova inevitabilmente anche ad avere a che fare con, diciamo così, poteri forti, cioè comunque con, per cui sappiamo per esempio dai giornali e anche insomma ovviamente che lei è stata minacciata persino in ospedale subito dopo la degenza, ha ricevuto minacce di appunto non sporgere denuncia del fatto. Poi l'avvocato di Francesco Tuccia, il militare, l'ex caporale accusato di questo tentato omicidio e stupro, è Alberico Villani ed è un uomo che insomma si è spinto fino a fare il nome della ragazza, il nome vero, quindi proprio nome e cognome, in una trasmissione spazzatura con Barbara D'Urso, e questa cosa ovviamente cioè, getta nel panico diciamo chiunque. Certo, la vittima non ha voglia dell'attenzione, delle chiacchiere delle, no, delle infatti, persone, poi c'è anche il fatto di levargli l'anonimato ha fatto sì che si è fermato il tuo microfono. Si è fermato, so. Il tuo microfono. Il mio microfono si è, sì, no, certo, toglierle l'anonimato è una cosa terribile. Tra l'altro, appunto, non credo che un avvocato possa farlo. Comunque lui l'ha fatto in televisione. Quindi, insomma, un uomo che non ha, anzi, fa molti scrupoli, ecco. A fronte di tutte queste difficoltà, come abbiamo detto, lei e i suoi familiari hanno cercato, insomma, anche nelle femministe una sponda, insomma, per arginare questa paura che hanno, più che motivata, e anche paura dell'isolamento, del trovarsi di sole, da sola a dover affrontare una situazione che vede come protagonisti appunto militari e persone che si sentono così tranquille da poter entrare in una stanza di ospedale ad una donna che si sta faticosamente, lentamente riprendendo da una quasi morte e fare delle minacce, insomma. Quindi evidentemente la situazione ovviamente le ha spinte appunto a cercare anche nelle femministe, nelle lesbiche, nei movimenti comunque di donne contro la violenza una sponda. Quindi da un lato il centro antiviolenza dell'Aquila e dall'altro lato questa mobilitazione che stiamo organizzando proprio il giorno del processo, perché il processo sarà per lei, come tutti i processi per stupro, particolarmente difficile. In questo caso, essendo il militare uno degli accusati, sarà difficile ancora di più, e quindi noi abbiamo pensato di organizzare una presenza là sotto per il giorno 18 ottobre, ovviamente coordinata con le compagne del centro antiviolenza dell'Aquila, che fra un po' andiamo anche a sentire per telefono, e aperta alla partecipazione di tutte le compagne, di tutte le lesbiche, di tutte le donne che lottano contro la violenza. Per organizzarci, insomma, almeno qui da Roma, lo ripetiamo e poi lo diremo anche in chiusura, c'è un'assemblea cittadina che si tiene qui a Via dei Volsci 22 alle ore 20, giovedì 4. ottobre, quindi giovedì questo che viene, alle ore 20, e organizzeremo appunto una presenza lì, ragionando insieme come si può fare, perché poi appunto L'Aquila è una città molto dislocata, molto dissestata, e bisognerà insomma fare alcuni ragionamenti. Comunque sicuramente saremo sotto il tribunale quella mattina, appunto è una delle richieste che ci è stata fatta e lo faremo. Sulla mobilitazione noi pensiamo possa essere, diciamo, una delle tappe di questa mobilitazione contro la violenza contro le donne che insomma almeno negli ultimi anni ha preso forma in Italia con dei ragionamenti comuni che ci portiamo magari dietro anche dal corteo nazionale del 25 novembre. Del 25 novembre, esatto, e quindi sarà caratterizzata da alcune linee di ragionamento, vabbè, appunto, che caratterizzano questo, questo tipo di movimento più ampio. Quindi, innanzitutto, che la violenza contro le donne è qualcosa che riguarda tutte le donne, non solo le donne coinvolte negli atti di violenza. Abbiamo delle vite fortemente a rischio e questa è il messaggio che vogliamo che passi, quindi noi non siamo lì, diciamo, per aiutare o sostenere, diciamo, semplicemente questa ennesima, in questo caso, ragazza che si trova a dover affrontare un processo per stupro, ma siamo lì anche per tutte noi, consapevoli che appunto è una realtà nella quale tutte quante viviamo, a cui siamo tutte quante esposte. Rifiutiamo ovviamente qualsiasi visione vittimistica della donna appunto che ha subito violenza, puntiamo l'indice sugli uomini, che vanno dai mariti agli ex compagni, ai padri, ai fratelli, al vicino di casa, al militare, al poliziotto, insomma tutte le categorie a seguire. E di qualsiasi orientamento anche di politico o di valori. E inoltre c'è tutto un discorso forse da portare lì all'Aquila sul concetto di sicurezza, per esempio, che ovviamente la città tuttora presidiata dai militari è tuttora infatti inagibile, richiama insomma chiaramente come sì. Anche se visibilizzare la violenza che le donne subiscono è comunque una cosa che dobbiamo continuare a fare verso tutte le donne, è anche questa cosa che vogliamo fare all'Aquila, perché comunque i militari ci sono, ok, le donne dappertutto sono esposte a questa violenza, in particolare là vorremmo anche toccare le donne del posto per appunto rifare capire sì. E ricordare che comunque i militari ci sono ancora, vanno ancora in discoteche e che sì, amici, questa situazione ci stanno ancora nelle strade sì, e non si può continuare a lasciarle fare la caccia alle donne così senza impunemente. Come? Impunemente. No, infatti, come altre caratteristiche, insomma, giusto per dirlo, ovviamente sarà una manifestazione di donne, perché crediamo che questo sia l'unico modo per poter insomma dire una parola chiara contro questa violenza contro le donne, e inoltre ovviamente non avrà nessun tipo di bandiera di partito sindacale, una manifestazione completamente auto-organizzata dalle femministe e dalle lesbiche che insieme, in particolare negli ultimi anni, hanno cominciato a martellare molto, a ragionare insieme sulla violenza, le tante forme di violenza, e qui insomma ci sono molte cose da dire. Quindi lanciamo come ultimo di nuovo l'appuntamento e poi sentiamo l'Aquila e poi lo rilanciamo per sì, ragionare sì. Insieme, organizzare la partecipazione giovedì 4 ottobre alle 20 al 22 di Via dei Volsci, un'assemblea cittadina. Carita de niño guapo se la ha ido comiendo el tiempo por tu vena y tu inseguridad machita se refleja cada día en mi lagrimita. Una vez más no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Una vez más no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen.

che potevano essere impiegate in altro modo, si è deciso insomma che fosse la curia, la diocesi a gestirle. Quindi noi, ripeto, il servizio lo garantiamo, il centro accoglie le donne, vengono svolti i percorsi di accoglienza e di fuoriuscita dalla violenza subita, però ripeto con una grande difficoltà, perché chiaramente la mancanza di fondi, che è un po' comune a tutti i centri antiviolenza in Italia, fa sì che queste esperienze straordinarie, insomma, invece di essere valorizzate e sostenute, via via siano costrette, insomma, a chiudere i battenti. Comunque noi all'Aquila non abbiamo nessuna intenzione di farlo, quindi continuiamo assolutamente la nostra attività, anche perché le richieste che vengono da parte delle donne sono numerose, sono costanti. Ormai il centro antiviolenza all'Aquila è considerato una realtà di